just name it. You're amazing, life-saving. What's mine is yours, just take it. Time is gone, the day is done. Got to get away, miss the sun. Top comes to numb my brain. Set the clock, begin again. Salvation I'm craving. I often wonder if I'm worth saving. I often wonder if I'm trapped in a dream. You release me, set me free. You're amazing, life-saving. Anything you need, just name it. You're amazing, life-saving. What's mine is yours, just take it. You're amazing, life-saving. Anything you need, just name it. Flight Crank with Amazing, incredibile. Flight Crank praticamente è il progetto solo di Leroy Thornhill, cioè quello dei Prodigy. E questo primo brano dell'album, l'album si intitola Beyond All Reasonable Doubt. Questo primo brano, Amazing, è descritto come un brano che somiglia a Finley Kay e Beck, bellissimo proprio. Un altro che sta facendo un solista, diciamo, è Damon Albarn dei Blur. Eccolo con il suo nuovo gruppo virtuale, diciamo, Gorillaz and Tomorrow Comes. Sole, mare e un turismo. Without ya, my time I left it, they say, down here, I know now. Once you think everything is sincere, the Lord's gonna make it so. He's the only one to make it all happen, or not happen. You don't wanna feel no more reality. You said to stay home making friends by the screen, through the web, right? But me, I'm so left alone, I don't know where to go. Don't feel safe around me. I wanna feel you. I wanna get closer. I wanna feel you. I wanna get closer. I wanna feel you. I wanna get closer. C'è proprio questo brano on Southside, that's Raz O'Hara and Reality. Allora, una donna che è stata una rivelazione incredibile è Dido, la sapete tutti quanti attraverso Eminem and Stan, eccetera, però continua il successo per lei. Britney Spears le ha chiesto di scrivere alcuni brani per il suo prossimo album e quindi magari diventerà tutto commercialista, commerciale, eccetera. A noi piace come sta, questo è Thank You da Dido. The loudest, the most powerful. Woman and Living in a Magazine on Southside. Andando avanti con la musica, questo si intitola Scam, il gruppo, il brano è Retail Therapy ed è stato ispirato ad un sitcom inglese, Are You Being Served, che praticamente parla di un grande negozio dove si vendono le cose. E due DJ, produttore DJ, si sono incontrati attraverso un chat room del internet e quindi interessante proprio la storia di questo Scam. It's some retail therapy. The truth is I don't know if you're the one to help me. Per un'ora Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Southside. Southside. Here we go. Downer Scene and Up on the Downside. Ed eccoci arrivati on Southside sull'appuntamento di quello che è successo nella musica in questo giorno, 11 aprile. E guardiamo nel 1961, vediamo il grande Bob Dylan che ha suonato il suo primo concerto come professionista alla spalla di John Lee Hooker al Gerds Folk City, New York City. Grande Bob Dylan, 40 anni dopo, ha finalmente vinto un premio per sua canzone nel film Wonder Boys. This is Things Have Changed. White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I heard easy, I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked inside, I'm out of range. I used to care, but things have changed. That's Bob Dylan with Things Have Changed. Le cose sono cambiate. È veramente vero quando uno pensa che 40 anni fa oggi lui ha suonato il suo primo concerto come professionista. Grande Bob Dylan. La micra glamour, deliziosa. È un piacere guardarla, così trendy negli interni in tinta carrozzeria, così in vista nei colori, così contenuto nei consumi. La micra glamour è una sensazione da provare a lungo. Ed oggi su tutte le micra a climatizzatore è incluso nel prezzo, se non avete un'auto da rottomare. Ma se il fresco non vi interessa e volete rottomare la vostra vecchia auto, la micra è vostra. Tenetevi forte, do 16.200.000 lire. Che interni, che colori, che fresco. Nuova micra glamour. Chiedi a chi una micra ce l'ha già. Con la musica andiamo avanti con The Ark, It Takes a Fool. Change your ball for my bliss. Let go my hand and it will slip on the sand. nothing of you. Salute, benessere e bellezza. In questo comunicato parliamo di salute e bellezza. Ogni giorno nel mio lavoro devo inventare qualcosa di nuovo. Per la mia linea, invece, non voglio inventare niente. Mi fido solo di Giuliani. Dimagrasi Giuliani è un integratore dietetico totalmente naturale che riduce l'assorbimento dei grassi ingeriti. Dimagrasi Giuliani lo trovi in bustina e in pratiche tavolette masticabili in farmacia. Dimagrasi Giuliani. Meno grassi assimilati, più successo alla tua dieta. Giuliani, siamo quelli dell'amaro. Kiss, kiss. Per le foto più emozionanti ci vogliono stampanti eccezionali. Per esempio, sei riuscita a cogliere tutta la morbida malinconia di un tramonto. Incredibili sfumature tra il rosso cupo, l'arancio brillante, che scolorano nel blu della notte che incombe ad oriente. E tu vorresti stampare una meraviglia simile senza avere una Epson Stylus Photo. Nuova Epson Stylus Photo. Emozioni infinite. Epson è... immagine emozione. Dalla ricerca Collistar, i rivoluzionari auto abbronzanti ad effetto naturale. Vuoi una splendida abbronzatura tutto l'anno anche senza sole? Prova i nuovi auto abbronzanti Collistar ad effetto naturale. Crema viso, crema corpo e il praticissimo spray. Perfetti anche per l'uomo. Auto abbronzanti Collistar, in profumeria. Io guardo il risultato. Kiss, kiss. ABS, cinture di sicurezza, servo sterzo, doppio airbag, barre laterali, pneumatici. Lisci. Per guidare sicuri, la prima cosa sono i pneumatici. Dal 1 al 30 aprile i controlli sono gratuiti dai gommisti che aderiscono all'iniziativa Pneumatici sotto controllo. Vai su www.pneumaticisottocontrollo.it. Controlla i tuoi pneumatici, perché tu non sei di gomma. Yes, yes. Cos'ha di tanto particolare l'Audi A2? Intanto è d'alluminio. E poi? E poi l'hai vista? No. Ah, ecco. Audi A2 in alluminio, out of the ordinary. Venite a provarla dai concessionari Audi. Kiss, kiss. La Columbia TriStar Films Italia presenta Ci sono corpi votati alla fedeltà. Se io amo una donna, le altre non le guardo, non esistono! Ci sono corpi nati per l'azione. Se ci avessi da lavorare, la maglia sta carne cruda. Cannibale. John Lee and Happiness, che bella la felicità questo mercoledì pomeriggio, ed è giusto che siamo tutti felici perché sta arrivando l'estate finalmente. Ragazzi, you're listening to Southside on Kiss Kiss Network, e se volete contattarmi il mio indirizzo email è fergal@kisskissnetwork.it, cioè fergal@kisskissnetwork.it. Allora, la musica on Southside, la musica più bella, più trendy, andiamo un po' in Australia e vediamo un nuovo gruppo che hanno appena pubblicato il loro album Since I Left You. Loro si chiamano The Avalanches e c'è una bellissima vocale female su questo che ha un certo feeling del 1960. A noi piace molto, e che ne pensate voi? Questo è Since I Left You by The Avalanches. Yeah. Southside. Southside. The money where the girl admire. Not the girl that make them all out to my jaw. And I be got the girl them power. Yeah, we pull up my ass, sing my dear. But I really just have to tell you this. It's been a while since I done my job in the tenderness. Your Coca-Cola back to shape and I don't carry it. I know you all want me, want me, I'll come up and make it. I don't want to show you I'm a man that baby romantic. But who's a baby, choose a girl, that's why we never itch. Nothing got to you, see me now, now you me want me strip. But listen when me sing this, look at the kick. Any man of the girls, them sugar. The girls, them rock and cover. Me love them shape and figure. You know them ladies. Now the man, the girls, them admire. When the girls, them love me by your hour. When me come with the girls, them power. So get on my ear when my heart upset. Them ladies, we love them shape and figure. Love the girl them by the tower. Make them all and cry for them mother. Yeah, you know me have the girl them power. Who do cool and little listen my heart to say. Them sugar. Allora, i Stereophonics erano una rivelazione di alcuni anni fa sulle scene gallese e britannica, e loro sono appena tornati da un bellissimo tour dell'America, tutto acustico, ma sembra che ci ritornino in questi giorni. Suoneranno in San Francisco e faranno un piccolo tour in maggio e finiranno a New York. Però eccoli per noi in Italia on Radio Kiss Kiss Network on Southside con il loro nuovo singolo, it's Mr. Writer. Fly around in planes that bring you down to meet me who loves you like me crashing to the ground. Are you so lonely? You don't even know me, but you like to spoon me. Why don't you tell it like you? A new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. La musica gallese sì che va forte. Abbiamo sentito i Stereophonics e adesso questo è David Gray with This Year's Love. Bellissimo. Ragazzi, però siamo arrivati alla conclusione di un'altra trasmissione. Io vi do l'appuntamento domani alle ore 18. My name is Fergal Kavanagh. Grazie di avermi ascoltato. A domani. South Southside. Per un'ora Virgo riproietta nelle nuove tendenze.